Thank you.

mondo così. Merida si rifiuta l'acqua brava, ti deride se soffre l'acqua brava. Ah, il mondo così. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。 cantare tra poco. Ma si credete a me, altro non me, altro non me, altro non me, altro non me. Siete voi, bel cielo, avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto la bemba disparve, me ne uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ale. Dateva forse in persona. Lo riconobbi. Egli è certo un uomo di coraggio, perché egli è qui solo e ancora così tarda, per lui già piante solle. Lo si teme, mi si voglia vendicar la valli. Poi va, pazzie, però non si sa mai. Perché tremo, perché tremo. piedi di Balli, il rimorso era là. Dove? Dove? Dove? Dove? Dove? Thank you.